10, buonasera, c'è nessuno su 10, break e break. Attenzione su 10, break un attimo, break e break e break. Attenzione su 10, c'è nessuno, buonasera. Oh, somebody. Attention, attention, my friend, attento Marco. Sono chiuso, già sto facendo da giù. Sono chiuso, sistemati quel capo del microfono, sistemalo perché non lo so bene. Cioè, ma passa passa nelle, e ti fa quel corruonaccio del cazzo, eh. Non tirarlo il capo, non tirarlo. Mi senti? Arriva la scala. Chiaro, mi senti? Sì, sì, ok. Sistema il cavo, sistema è tutto uno schifo. Sistemalo, tu sicuramente devi aprire lo spinotto, dai. La cosa arriva bene, c'è sotto casa, cazzo, via, non stai provando. Ok, va bene, dai, ci sentiamo più avanti. Ok, buon viaggio allora, ci sentiamo, dai, ok. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Non tirarlo il capo, se lo tiri peggio, sistemalo comunque che è tutto schifo, e poi fai anche danno pure, stai attento. Attenzione 10. Avanti 10, avanti. Buonasera a tutti, doppio 1. Mi ascoltate? Sì. Ti ascolto, da questa zona. Da questa zona uranio, da Usino e. È un altro amico che c'era da prima, ok. Roger, doppio rumore, fate proteggere, dammi un controllino a vedere come ci sta arrivando lì, di Santiago Radio. Santiago 5, Radio 3. Ah, ok. E adesso, vedi un po' adesso, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, com'è adesso? Santiago 8, la radio aumentata, vai qua. Ah, ok, perfetto, dai, ho attaccato qualche piccola cosettina, poca roba, robetta da principianti, là. Ok, perfetto, grazie, tu stai arrivando lo stesso bene qua, Santiago 8, 9 mi pare, è un orario di 5, perfetta. Ok, grazie del controllo, doppio rum, io mi devo spostare qua, devo uscire in questi greca, ok. Ci sentiamo un buon proseguimento di serata, per me è corretti, ciao ciao a tutti. Ciao ciao Urania. Comunque c'è bene, se è attaccato il lineare c'è bene, io sono senza nulla, Tu con il lineare attaccato la radio è buona. Lo so, sto usando il tuo baracchinetto del capo, non l'ha ancora tutto posto, già. Momentaneamente c'ho questo. Vabbè, ok. Grazie dei controlli, ancora buon proseguimento per me e QRT. Ciao ciao. Ciao Rami. Yo puedo estar por ahí.